Quest'anno, visto il clima politico che stiamo attraversando e visto che chi viene mondiale è abituato, noi non ci fermiamo mai, non ci accontentiamo di quello che abbiamo realizzato, quest'anno abbiamo pensato di moltiplicare gli appuntamenti. Uno, a partire dai territori, cioè vorremmo sempre di più dare protagonismo ai territori dove si fanno attività antirazziste, alcune delle quali proprio legate ai mondiali, altre magari ispirate, però ci piacerebbe che i territori parlassero antirazzista, perché ce n'è davvero bisogno. La seconda novità è che i mondiali, quelli insomma come li conosciamo, si sdoppiano e quindi avremo due grandi appuntamenti, uno che rimane a Bosco Albergati e sarà a fine di maggio, tra il 31 maggio e il 2 di giugno, che si lega un po' anche alle finali del torneo di Mondi, che oramai a Bologna sta diventando un grande torneo antirazzista su base annuale, dove appunto ci sarà un primo appuntamento di mondiali con il torneo di calcio, il torneo di pallavolo, anche se in forma un po' diversa, perché saremo ospitati all'interno di una manifestazione che si chiama Viver Verde, che si occupa di temi ambientali, che è sempre stata una grande colonna comunque dei mondiali, e quindi ci sarà il campeggio, però noi non gestiremo più, diciamo, la parte di accoglienza, ristorativa e concerti, quindi insomma un po' diverso il clima. E poi a luglio, nella settimana dei mondiali, abbiamo deciso di andare a Riace, di trasferire i mondiali a Riace, città dell'accoglienza, città simbolo. Oltretutto siamo molto contenti che in questi giorni è uscita la notizia che la Cassazione dà ragione a Mimmo Lucano, e vorremmo che Riace ricominciasse davvero a vivere per quel modello di accoglienza che era. Su Riace c'è stato un accanimento anche politico, perché ricordiamo quel modello è stato smantellato dal Viminale. La presenza dei mondiali antirazzisti cos'è? Un modo anche per ricominciare? Secondo noi sì, noi vorremmo portare la nostra gioia, la nostra festa dei partecipanti, che danno una testimonianza quindi al paese, a Mimmo ovviamente, ma soprattutto a tutti quelli che a Riace sono in attesa di ricominciare, perché siamo scesi per un sopralluogo e c'è una voglia di ricominciare ad accogliere e a vivere come era prima. È un paese bellissimo che, come molti paesi soprattutto dell'entroterra, delle nostre colline, molto sud ma non solo, si stanno spopolando, rischiano quindi la morte grazie alla presenza dei migranti in questi ultimi anni. Era un paese che aveva ricominciato a vivere, le scuole erano comunque rimaste aperte, soprattutto si era ingenerato un sistema di lavoro misto, non solo per i migranti ma anche molti operatori italiani, visto che adesso bisogna sempre mettere prima gli italiani, altrimenti sembra che il nostro sangue si contamini. Oramai stiamo andando verso questi discorsi, mentre invece Riace era proprio un modello in cui la convivenza era assolutamente possibile, anzi in quel caso auspicabile, quindi tutti riuscivano a vivere, convivere in maniera anche molto festosa, e il villaggio ne è proprio una testimonianza, si chiama Villaggio Globale. Chi poi vuole si vada a vedere le immagini sia del documentario bellissimo di in Wenders, ma anche foto che abbiamo messo sul nostro sito. Ovunque parla lingue diverse, ma parla di accoglienza. Noi vorremmo che i mondiali fossero un riflettore acceso, fossero un modo per spingere le persone magari a fare un turismo responsabile. Ci sono molte case libere destinate all'accoglienza che possono essere destinate magari in futuro in parte al turismo, in parte all'accoglienza, per far ripartire un modello assolutamente virtuoso. E noi vorremmo che si riaccendessero i riflettori su Riace, ma in maniera positiva. Diamo anche qualche info tecnica, perché proprio oggi parte l'iscrizione delle centinaia di squadre che in questo caso quindi hanno due possibilità. Assolutamente. Oggi sul sito, come è tradizione, si aprono tutte le iscrizioni: calcio e pallavolo per Bosco e calcio e pallavolo per Riace. Quindi sul sito ci sono tutti i form elettronici. Ovviamente chi viene a Bosco può venire a Riace, si può scegliere, cioè non facciamo esclusioni. L'unica cosa che chiediamo è quest'anno davvero di farci avere i numeri, soprattutto su Riace, perché come immaginate non andiamo in un mega villaggio turistico con 1000 posti, ma dovremmo un po' cercare di capire dove indirizzare le persone. Ci sono campeggi, stiamo stringendo anche degli accordi con case d'accoglienza, campeggi, hotel, però insomma vorremmo avere i numeri, perché non possiamo neanche invadere comunque Riace. E su Bosco ci sarà il campeggio gratuito a disposizione, anche lì avere dei numeri poi ci aiuta, perché i ragazzi di Bosco Albergato che stanno organizzando Viver Verde chiaramente hanno bisogno anche loro di capire quanti saremo. Poi per il resto è più o meno tutto come siete stati sempre abituati a fare. L'unica accortezza è il torneo di pallavolo, si potrà prenotare solo prima e non durante i mondiali, perché chiaramente essendo una versione un po' più ridotta non avremo troppo tempo per organizzare cartelloni e quant'altro, certo. Prenotarsi in anticipo.